Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La chiamano spinta, spintarella, segnalazione, oppure in maniera più diretta calcio nel sedere. Di fatto la raccomandazione è oggi come ieri l'unica possibilità di ottenere un lavoro in Italia, alla faccia di fatiche, studi e impegno. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi andiamo dritti al cuore della fuga dei nostri migliori talenti. Abbiamo scelto di aprire il programma con uno schiaffo ai mediocri, raccomandati e cooptati che si sono fatti classe dirigente rubando il posto a professionisti di valore che avrebbero potuto rendere l'Italia un posto migliore. Lo spunto ce lo offre l'interessante documentario di Paolo Fazzini, Ti raccomando l'Italia, in uscita breve. E chi non conosce almeno un raccomandato? Non pensate sia giunta l'ora di mandare questi mediocri all'estero e far tornare i migliori? Oggi parleremo molto di selezione all'italiana, dove la raccomandazione o conoscenza conta, ai noi, più del curriculum, ma non solo. Intervista di Giovani Talenti al ministro degli esteri Giulio Terzi. Per cominciare, la storia della settimana. Domanda: cosa succede quando dall'estero si prova a rientrare? Io mi sono ritrovata a scontrarmi con la stessa realtà di quando me ne sono andata dall'Italia. Mandi un curriculum, non ti rispondono, posizioni sono aperte ma non vengono messe sul sito, selezione a volte molto poco trasparente. Silvia Arnaboldi, 31 anni, lavora nel settore delle risorse umane di un'importante multinazionale americana ad Amsterdam. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario in versione speciale. La fuga dei talenti italiana di nuovo sui media internazionali, ne ha parlato martedì l'autorevole Financial Times, stimando in 120.000 i giovani italiani emigrati nel biennio 2008-2009, il 70% di loro laureati. L'articolo cita anche la trasmissione di Radio 24. Ora, come annunciato, l'intervista al ministro degli esteri Giulio Terzi, intervista nella quale abbiamo messo al centro l'emergenza della fuga dei talenti. Terzi, come ascolterete, parla soprattutto di ricerca e ricercatori. Noi restiamo convinti che la visione del problema debba restare quanto più allargata a tutte le professioni. Sentiamo. Si tratta di una grandissima ricchezza di cui il nostro paese dispone all'estero. Si tratta, per riferirci soltanto agli Stati Uniti, di diverse decine di migliaia di studenti che in questo momento operano lì e altre migliaia sicuramente in Europa. Ma a questo grande flusso di nostri talenti all'estero corrisponde anche un flusso in senso inverso di talenti stranieri che vengono in Italia. Non sottostimiamo questa capacità di attrazione del mondo dell'università e della ricerca italiana verso gli stranieri. In tema di saldo emigrati qualificati, immigrati qualificati, le statistiche OCSE, quei pochi dati disponibili, dicono che noi siamo in realtà in negativo, Germania, Stati Uniti, gli altri in positivo, noi tra i paesi G7 e G8 siamo in negativo, cioè esportiamo più di quanto attraiamo. E le aggiungo una cosa, è molto difficile tornare. Sì, questo è un problema che esiste, riguarda indubbiamente l'alto tasso di disoccupazione giovanile, soprattutto al di sotto dei 30 anni, un andamento dell'economia che conosciamo, che quindi è stato su livelli molto bassi, prossimi allo zero per un certo numero di anni. Non c'è nessun dubbio, vorrei però illuminare anche l'altro aspetto, che è la grandissima vitalità che esiste fra il mondo dell'università italiana e le università straniere. Ci sono circa 9.000 intese fra università italiane e quelle di altre parti del mondo, con un'attrazione di studenti e di ricercatori che solo dal 2007 al 2011 è passata da 31.000 a 62.000. Ministro, lei cita molto l'università, anche se, le dico per esperienza personale, negli ultimi 10-15 anni il fenomeno di emigrazione si è esteso veramente a tutte le categorie professionali, e su questo mancano dati, mancano statistiche ufficiali, l'AIRE è ampiamente sottodimensionato, non c'è insomma un vero e proprio censimento ufficiale. Non pensa che sia stato sottovalutato il fenomeno? E soprattutto, prendete un impegno per cominciare a misurare, ma a 360 gradi, non più solo università, il perché tanti giovani se ne vanno e in quali categorie e quanti sono? Noi stiamo facendo degli approfondimenti e degli studi e stiamo lavorando ancora con i ministeri, con CNR, con l'ASI, abbiamo creato dei tavoli di approfondimento di questo aspetto. Io mi riprometto, è proprio un'idea che sto lanciando, che ho avuto sin dall'inizio del mio mandato, l'aspetto della dimensione immensa della scienza e della ricerca nello sviluppo delle relazioni bilaterali. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: capo delle risorse umane all'organizzazione internazionale IDEA, sede di Stoccolma, scadenza per i CV, domani info su idea.int. Un capo della comunicazione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, sede di Ginevra, scadenza per i CV 23 gennaio, info su wto.org. E infine un fisico nucleare all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, scadenza per i CV 25 gennaio, info su iaea.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nei Paesi Bassi per parlare di selezione e di talento. Nome: Silvia. Cognome: Arnaboldi. Età: 31 anni. Città di origine: Cantù. Studi: sociologia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Amsterdam. Perché? Lavoro e amore. Quale lavoro svolgi attualmente? Learning and Development Manager. Dove? In una multinazionale americana dell'abbigliamento sportivo. Tornerai? Spero di tornare. Do you think you're better off alone? La Eurodance del gruppo olandese Alice DJ per introdurre la storia di Silvia Arnaboldi. Il modo in cui la risorsa umana viene trattata e approcciata in Italia non è sempre basato sul concetto che le persone costituiscono la risorsa più importante per un'azienda. Così scrivi da esperta del settore a giovanitalenti@radio24.it. Silvia, io voglio sintetizzare il tutto con una parola chiave che tu citi più volte: rispetto. Manca il rispetto in Italia nella selezione e valorizzazione dei giovani talenti. Manca il rispetto per la persona e per la professionalità dei talenti italiani. Quello che ho notato io, ad esempio, nel processo di selezione, da cose basilari come ricevere risposta dopo che viene mandato un CV o dopo un colloquio, a, diciamo, il modo in cui si viene trattati durante un colloquio. Approfondiremo tutto questo tra poco. Iniziamo dai tuoi studi. Scegli sociologia economica e del lavoro a Milano. Perché? Mi sarebbe piaciuto rimanere nell'ambito universitario e lavorare, diciamo, all'interno del Ministero del Lavoro, magari in un futuro in organizzazioni internazionali. Nel 2003 la prima vera esperienza all'estero con un Erasmus in Finlandia. Quali orizzonti mentali ti dischiude e quanto si rivelerà importante alla luce delle tue scelte di lavoro future? L'Erasmus in Finlandia mi ha reso possibile prima di tutto imparare l'inglese, entrare in contatto con realtà completamente diverse da quelle italiane. Senza dubbio dal punto di vista lavorativo mi ha magari avvantaggiato nel momento in cui ho cercato un lavoro all'estero. Ma se dovessi dare un giudizio complessivo poi della qualità dell'insegnamento in Italia? La mia esperienza in Italia non è stata, diciamo, sgradevole, nel senso che l'università era nuova, era molto ben organizzata. I punti fondamentali era che rispetto comunque all'esperienza finlandese e anche altri studenti, l'università italiana all'epoca non prevedeva alcuna connessione con il mondo del lavoro. L'inglese non era decisamente un requisito. Dopo la laurea ti si aprono due strade, quella dell'impiego nel settore privato e quella di un dottorato in università scienze del lavoro. Partiamo da questa seconda opzione. Quale motivo, giunta alla prova del test ingresso, ti scoraggiò al punto da praticamente portarti ad auto-escluderti? Un dottorato in Italia prevede uno stipendio di 800 euro al mese se ottieni la borsa per 3 anni, e visto che appunto all'epoca lavoravo a Milano, sapevo che con quello stipendio avrei comunque dovuto continuare ad avere 2 lavori per 3 anni senza possibilità, diciamo, di cambiare o influire in nessun modo sulla mia retribuzione, quindi alla fine ho deciso di continuare a lavorare nel settore privato. Esatto, l'altra strada che si apre già nell'anno della laurea, quando comincio a lavorare per una società di recruitment a Milano. Sei stata fortunata perché uno stipendio tu l'hai avuto, però vogliamo dire a quanto ammontava e soprattutto possiamo definirlo uno stipendio europeo? No, io sono stata fortunata perché per 3 mesi ho avuto uno stage che comunque era retribuito 1000 euro in 3 mesi, dopodiché sono stata contratta a progetto per quasi un anno e ricevevo 800 euro al mese. Fortunata per l'Italia, decisamente non. Per un olandese europeo, un po' meno. Sul fronte dell'esperienza lavorativa in senso stretto, ti puoi almeno dire soddisfatta? Sì, sono soddisfatta comunque con l'esperienza italiana, diciamo, poi mi ha portato a trovare lavoro in Olanda. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Fu così che senza rimpianti mi convinsi a seguire il mio ragazzo all'estero, destinazione Amsterdam, città dove lui si era trasferito qualche mese prima per un dottorato. Goodbye malinconia, per dirla con caparezza. Ci vuoi dire quante offerte di lavoro hai ricevuto ad Amsterdam, pur non parlando all'epoca un inglese da Oxford? La mia esperienza quando mi sono trasferita ad Amsterdam è stata fantastica, perché praticamente nel giro di 2 mesi io ho ricevuto 3 offerte di lavoro da 3 diverse aziende internazionali, e tutte comunque con stipendi e contratti molto diversi rispetto a quello che avevo in Italia. Tra l'altro una cosa mi ha stupito leggendo la tua email, la semplicità del contratto olandese, ben diverso da quell'assurda foresta di contrattini precari e spesso umilianti che potevi trovare in Italia. Come si vive, Silvia, nel mondo nordico? Allora, in Olanda il contratto fondamentalmente di una tipologia può essere a tempo determinato o indeterminato, quindi non esiste CocoPro, partita IVA, CocoCo, niente di simile, non esistono stage non pagati e diciamo che lo stipendio iniziale si aggira intorno ai 25-30 mila euro l'anno. È vero, Silvia, che in Olanda essere straniere è paradossalmente un vantaggio sul mercato del lavoro? Sì, perché in Olanda comunque ci sono molte aziende internazionali che lavorano sul mercato internazionale, quindi il fatto di portare un'esperienza diversa da quella di olandese, una conoscenza di una lingua che non sia solo quella olandese e inglese, viene vista come un vantaggio, una cosa in più che tu porti all'azienda. Per farla breve, accetti l'offerta di una delle più note multinazionali americane di abbigliamento per la quale tuttora lavori e puntualizzi a giovanitalenti@radio24.it. Vengo trattata da adulta in una relazione tra due mondi adulti, aziende dipendenti che si rispettano a vicenda e pretendono il meglio l'uno dall'altro. Ci racconti quanto è diverso il mondo dei rapporti sul lavoro tra Olanda e Italia. Allora, il mondo del lavoro in Olanda è veramente basato sulla completa fiducia nel dipendente, quindi c'è molta flessibilità a livello di orari, molta flessibilità anche nel lavorare da casa se necessario, la valutazione della persona, delle performance e anche gli stipendi sono molto trasparenti, non sono dettati da leggi nazionali ma da quanto una persona raggiunge, diciamo, i suoi obiettivi. Dall'Olanda osservi l'Italia con delle considerazioni di una lucidità estrema. Punto primo, affermi mai e poi mai accettare lavori dove si viene sottopagati e sottostimati. Perché, Silvia? I miei concetti di base sono molto semplici. Se quello che faccio non crea profitto per l'azienda, allora tanto vale che non sfrutti il mio tempo in maniera diversa. Se l'azienda non è in grado di comunque dare un salario che sia onesto, non penso che sia un posto in cui sia intelligente investire il mio tempo e il mio talento. Punto secondo, definisci i giovani italiani vittime di un modo di fare basato su filosofie gerarchiche non meritocratiche. Chi ci guadagna da queste filosofie? Penso che nel breve termine ci guadagnino, diciamo, le solite persone che rimangono nelle posizioni più alte nel mercato del lavoro italiano. Nel lungo termine penso che sia una perdita per tutti. Tuttavia, premesso questo, tu qui vorresti tornare? Un paese civile, avanzato, di fronte a una giovane professionista motivata, con una lunga esperienza all'estero che cerca di rientrare, dovrebbe, non dico stendere il tappeto rosso, ma quasi. Invece, raccontaci come l'Italia reagisce ai segnali che lanci dall'Olanda. Fondamentalmente o non reagisce, nel senso che io mi sono ritrovata a scontrarmi con la stessa realtà di quando me ne sono andata dall'Italia, appena mi sono laureata, quindi mandi un curriculum, non ti rispondono, posizioni sono aperte ma non vengono messe sul sito, selezione a volte è molto poco trasparente e le domande, diciamo, che a volte mi fanno dei colloqui sono molto poco basate su vedere che competenze ho e più su quanti anni ho e così via. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Cambierei il mercato del lavoro, nel senso che secondo me il mercato del lavoro deve diventare molto più fluido sia in entrata che in uscita. Cambierei il modo in cui viene affrontato il tema dei stipendi in Italia, dovrebbe essere molto più legato alla performance. Mi rendo conto che sono scelte difficili perché comunque è una rivoluzione nel modo in cui viene visto il mercato del lavoro in Italia, ma secondo me è necessaria nel lungo termine. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Silvia Arnaboldi, 31enne Talent Development Senior Facilitator per un'importante multinazionale americana ad Amsterdam. Silvia è approdata in Olanda dopo una laurea in sociologia e una prima deludente esperienza nel settore delle risorse umane a Milano con un contratto CocoPro. 5 anni fa opta per trasferirsi nei Paesi Bassi, dove in poche settimane riceve 3 offerte di lavoro. Accetta un contratto con l'attuale multinazionale, dove nel corso degli anni un rapporto professionale basato sul rispetto e sui risultati, ricevendo in cambio fiducia e moltissima autonomia. Da Amsterdam osserva un paese, l'Italia, dove vorrebbe poter rientrare per aiutare nella ricostruzione. E qui con noi in studio Stefano Scabbio, amministratore delegato di Manpower Group Italia e Iberia. Buon pomeriggio. Buongiorno. Dottor Scabbio, che impressione le ha fatto ascoltare la storia di Silvia? Insomma, non è un po' scandaloso che chi giovane, motivato dall'esperienza internazionale, ha tanto da dare a questo paese e poi si trova le porte sprangate al momento del rientro? Ma mi ha colpito sentito indubbiamente l'aspetto più che altro dell'etica, dei valori con cui una persona che sta cercando lavoro viene trattata dagli intermediari con cui si è confrontata. Questo è un aspetto secondo me abbastanza grave, che denoto preoccupante. È vero che la domanda di lavoro nel nostro paese in questo momento non c'è, oppure è molto bassa, ma il rispetto per la persona, per la risorsa umana, che è veramente il fattore distintivo del successo di un'azienda, credo che sia l'aspetto principale in cui soprattutto un intermediario professionale deve cercare di approcciarsi in maniera appunto professionale. Scambio, io sono felice di averla qui in trasmissione, perché lei in recenti interviste ha usato parole che raramente ho sentito in Italia. Ha dichiarato: siamo ancora il paese dei figli di, nipoti di, che non concede chance al resto dei figli e dei nipoti, laddove un serio rilancio della meritocrazia permetterebbe il successo sociale e professionale ai giovani validi. Eppure 6 aziende su 10 in questo paese continuano ad assumere solo chi conoscono, ignorando la selezione strutturata. Allora, come fare leva sui giovani outsider? Quale ruolo possono anche giocare le multinazionali straniere? Ma credo che questo, il concetto del merito, sia un concetto fondamentale. È un paese in cui l'ascensore sociale, ahimè, si è bloccata, e si è bloccata a cominciare dal percorso di education che facciamo. C'è un tentativo di egualitarismo esasperato, e in questo tentativo di egualitarismo esasperato non facciamo emergere i talenti, e quindi di conseguenza non creiamo delle eccellenze, e questo ne ha risentito negli anni anche la classe dirigente e l'elite che guida questo paese. Ma non c'è un problema più profondo di cultura della selezione in Italia? Silvia lo ha detto: si offrono stipendi bassi, non si risponde ai curricula, si valuta l'età e non le competenze, latita al rispetto. Non è forse il caso di buttare a mare un certo libro delle regole e ripartire da zero? Credo che dal punto di vista degli intermediari, oggi esistono degli intermediari sul mercato assolutamente professionali. È vero che purtroppo, guardando le statistiche, soltanto il 10% passa attraverso questo canale, quindi ancora il mercato dell'informalità, della conoscenza, del rapporto personale, in una cultura sostanzialmente provinciale che caratterizza il nostro paese. Ricordiamoci che siamo anche un paese la cui economia è basata sulla piccola media impresa, quindi non c'è una cultura di management e una cultura di impresa sviluppata. Anche questo ha una sua influenza nel nostro paese. Silvia, hai una domanda per Stefano Scabbio? Che consiglio darebbe ai giovani d'oggi per comunque contribuire al cambiamento economico e sociale che è necessario in Italia? Credo che la spinta che tutti noi dobbiamo dare è di contribuire veramente all'interno della realtà in cui viviamo ad esprimere questo valore che io ritengo indispensabile, che anche tu prima, Silvia, hai elencato, che è l'aspetto del merito. Perché bene o male tutti noi, nel piccolo o nel grande, coordiniamo risorse, e quindi abbiamo bisogno di dare questo messaggio, abbiamo bisogno di dare delle opportunità a chi veramente esprime professionalità, competenze, valore all'interno delle aziende. Uno sguardo al futuro prima di chiudere: la vostra ultima indagine parla di un mercato del lavoro ancora debole, con una previsione di occupazione a meno 7% nel 2012. Allora, quale soluzione per un giovane che vuole crescere? Stare qui o andare all'estero? Da italiano io direi ai nostri giovani di rimanere qui. Spero che con le riforme che questo governo si appresta a fare ci siano delle opportunità maggiori anche di lavoro. I lavori non si creano per decreto, si creano se il paese si sviluppa, se il paese è in grado di attrarre capitali stranieri. Grazie a Stefano Scabbio. E domanda di rito finale per Silvia Arnaboldi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Ci sono altre realtà in Europa in cui il mercato senza dubbio è migliore di quello dell'Italia, si può sempre comunque uscire, acquisire delle competenze e tornare poi nel mercato italiano più tardi. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Avete mai pensato di lasciare l'Italia e il vostro lavoro per un periodo definito, andando all'estero? Tecnicamente si chiama anno sabbatico. Riccardo Caserini vi ha dedicato un libro e un blog. Ci spiega com'è nata l'idea. È nata dal fatto che io ho fatto per 2 volte un anno sabbatico, quindi sono recidivo. L'ho fatto la prima volta a 27 anni e la seconda volta a 31 anni. Ed entrambe le volte sono partito non sapendo che sarei tornato. E ho visto che questo tipo di esperienza può essere molto utile per persone che hanno questo desiderio di vedere qualcos'altro. In Italia è un tema abbastanza nuovo, quello dell'anno sabbatico, condiviso invece all'estero, anche a livello culturale. Qui in Italia mi sento un pochettino pioniera, in effetti, perché non siamo in molti ad averlo fatto e il tema deve essere ancora sdoganato culturalmente. Cioè, imprese e lavoratori non sono ancora particolarmente sensibili a questa possibilità, ma quali vantaggi offre? Offre intanto la possibilità di confrontarsi davvero con questa voglia di fuga, prima cosa, per quanto riguarda le persone, per cui uno parte, vede il mondo come funziona al di là del suo piccolo, no? Quello che ha vissuto fino alla routine, che vive tutti i giorni, parte, vede un nuovo mondo, prende qualche schiaffone, impara a cosa vuol dire vivere e autoalimentarsi, ci tengo a precisare, se hanno sabbatico e sovvenzionato dai genitori, non va bene, non funziona così, quindi impara a conoscersi e poi sceglie, persone stanno all'estero, rimangono all'estero per tanto tempo, altre persone decidono di rientrare. Per le aziende si inizia in Italia a ragionare sull'utilizzo all'interno dell'azienda, cosa che, ripeto, viene fatta normalmente all'estero. Cosa può offrire ad un'azienda? Può offrire persone dinamiche, può offrire persone che approfondiscono e non si accontentano di una cosa sedentaria, può offrire la possibilità di avere persone molto motivate a lavorare sempre per questa azienda. L'anno sabbatico può costituire una via di mezzo tra l'espatrio netto e il rimanere qui? Credo che possa dare una mano proprio a fare esperienze temporanee che attivino un po' un circolo virtuoso di aria fresca che arriva in Italia, persone che vanno all'estero ma non solo per costrizione, per fare un'esperienza. Poi magari rientrino nel nostro paese e dà una mano affinché le cose cambino. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.annosabbatico.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Da questo mese nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere l'Italia un paese dove i migliori circolano e non scappano. Attendiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.